Leggere è un modo per viaggiare. Yeah! What's up, y'all? This is your boy D-Mike. You see, I usually do songs with like hooks and concepts and shit, right? But fuck that, man. I'm trying to go platinum. So I'm about to rock this shit. Check this out, y'all. Read a book, read a book, read a motherfucking book. Read a book, read a book, read a motherfucking book. Read a book, read a book, read a motherfucking book. Read a book, read a book, read a motherfucking book. R-E-A-D-A-B-O-O-K. R-E-A-D-A-B-O-O-K. R-E-A-D-A-B-O-O-K. R-E-A-D-A-B-O-O-K. Direi che è il modo più bello per viaggiare. Buonasera, buonasera a tutte e tutti e benvenuti all'ascolto di questa prima puntata della nuova trasmissione dedicata alla letteratura di Radio Wombat. Questa trasmissione, che in realtà è da tanto che desideravamo avviare, nasce in occasione della difficoltà di realizzare il quinto festival di letteratura sociale di Firenze. Sì, perché sono ormai 5 anni che a maggio viene organizzata negli spazi autogestiti della Polveriera, nel chiostro di Santa Pollonia, in centro a Firenze, una 4 giorni tutta dedicata alla letteratura, e più precisamente a quella letteratura che è portatrice di una cultura libera, solidale e critica della società capitalista in cui viviamo. Ogni anno, fin dalla prima edizione del festival, Radio Wombat è stata lì presente con un suo banchino, con il suo salotto letterario e trasmettendo in diretta e poi archiviando come podcast sul sito della radio tutti gli eventi che vi si svolgevano. Quest'anno, però, per scontate ragioni, non c'è certezza che il festival potrà tenersi e comunque, anche se sì, non sarà sicuramente nella forma in cui lo abbiamo conosciuto fino allo scorso anno, ovvero mettendo assieme nelle stesse stanze, in una raffica di eventi in successione, fino a sera inoltrata, autori, editori, artisti e riviste, oltre a spettacoli, reading, banchine, cene popolari, eccetera. Però quella spinta, quella pulsione critica e solidaristica e quella convinzione che la letteratura abbia un valore incommensurabile e che debba essere liberamente condivisa e accessibile a tutti non si è certo placata in noi. E per questo, per queste ragioni, abbiamo deciso di creare uno spazio apposito qui su Radio Wombat nel quale presentare pubblicazioni di vario tipo e dialogare con scrittori, saggisti, poeti e quant'altro. E quindi iniziamo oggi questo percorso che durerà a lungo, forse per sempre, e lo iniziamo con un libro al quale tutto quanto abbiamo detto calza alla perfezione. Parliamo infatti del libro La natura dell'economia, un libro uscito da pochi giorni, che è stato pubblicato questo aprile da Derive a Prodi. Si intitola La natura dell'economia, femminismo, economia, politica, ecologia. È curato da Federica Giardini, Sara Pirallini e Federica Tomasello. Nei giorni scorsi abbiamo raggiunto a telefono 2 delle curatrici, Sara e Federica, di questo libro. Ma prima di tutto direi di leggere subito la quarta di copertina, così introduciamo il tema e l'argomento e poi andiamo a dialogare con le curatrici. Via! Dalle mobilitazioni per il salario al lavoro domestico degli anni 70, alla ripresa della questione della riproduzione sociale su scala planetaria, la critica femminista dell'economia politica, attingendo alle prospettive aperte dalle mobilitazioni e dalle pratiche dei movimenti delle donne, aiuta a comprendere la natura attuale dell'economia, tanto nei suoi aspetti ideologici quanto in quelli strutturali. L'analisi della natura dell'economia mostra infatti come i processi di valorizzazione capitalistica sottopongano le attività umane e le risorse naturali a un regime di visibilità e invisibilità strumentale, dalla disponibilità incondizionata della cura assegnata alle donne, al consumo illimitato di quel che rende possibile la vita, fino alle falsificazioni del capitalismo green. I contenuti presenti nel volume non si limitano a ricostruire la parte delle donne in questi processi, ma concorrono a una ridefinizione del campo economico e delle sue intersezioni con l'ecologia. Il libro, da 192 pagine, appunto, è stato pubblicato da Derive e Approdi. Noi abbiamo raggiunto a telefono Sara Pierallini e Federica Tomasello, due delle curatrici. Entrambe fanno parte della redazione di IAF Italia, che è un centro di ricerca del pensiero femminista. Sara, l'avete magari sentita 2 settimane fa nella sua corrispondenza da Barcellona, è una militante, attivista politica, si è laureata con una tesi sul lavoro di riproduzione, un tema che andremo fra l'altro ad affrontare in modo specifico durante questa intervista presentazione, approfondendo l'aspetto del lavoro di cura con studi sul campo di gruppi autogestiti di educazione condivisa. Federica invece è basata a Roma, collabora con diverse associazioni occupandosi soprattutto di formazione e ricerca sui temi della giustizia ambientale e sociale. Attualmente partecipa al gruppo di ricerca su economia e ecologia femminista Ecopol. A loro abbiamo chiesto innanzitutto il perché di questo libro, il perché di questo titolo, cioè la natura dell'economia, femminismo, economia politica, ecologia. Ascoltiamo che cosa ci hanno risposto. Ciao, sono Sara e ringrazio Radio Wombat per darci questa occasione della presentazione, per presentare questo libro, La natura dell'economia, e alla domanda perché la natura dell'economia. In realtà questa domanda a me porta al perché nasce questo libro. E per rispondere a questa domanda in realtà devo andare un po' indietro nel tempo, cercherò di essere breve, però questo libro ha una storia abbastanza intensa e piena di accadimenti e esperienze, come è un percorso complesso, come complessa è la politica femminista. Quindi andrei con la nascita dell'atelier Ecopol, ovvero l'atelier Economia e Ecologia Politica di IAF Italia, dove IAF Italia è un centro di ricerca del pensiero femminista di cui facciamo parte anche io e Federica Tomasello nella redazione, e IAF Italia è nato in un simposio del 2006 dal titolo Il pensiero dell'esperienza, che si è svolto a Roma, coordinato da Federica Giardini, che è anche coordinatrice del centro di ricerca, oltre a essere la direttrice del master Studi e politiche di genere, su cui tornerò successivamente perché gioca un ruolo importantissimo nella creazione del libro e nell'idea stessa degli argomenti che tratteremo. Bene, quindi nasce l'atelier Ecopol nel 2015, un percorso seminariale che poi ha dato vita alla produzione di documenti, a dialoghi, ed è un gruppo che nasce dal desiderio di fare ricercazione su paradigmi alternativi di ecologia ed economia politica transfemminista e queer. Da qui nasce poi l'idea di creare all'interno del Master Studi e Politiche di Genere, che nasce nel 2017, che nel 2018 ha al suo interno un modulo che vuole affrontare questi temi. Il modulo si chiama Economie e in questo modulo vi rientriamo e lo coordiniamo nella sua creazione, nel suo, diciamo, svolgersi, Federica Giardini, Gea Piccardi, che appunto fanno parte dell'atelier Ecopol, io e Federica Tommasello. In particolare, quindi, questo atelier viene formato da filosofe, in particolare io sono, nasco da un, vengo da, dalla facoltà di economia, anche se poi ho intrapreso la via della filosofia e successivamente, le scienze sociali per quanto riguarda Federica Tommasello, che poi anche lei si è dedicata agli studi di ecologia politica, economia e ecofemminismo. Beh, questo modulo, quando ci siamo interrogate su come modellarlo, durante la sua creazione, noi abbiamo deciso, di interagire, di far interagire il piano economico con la dimensione ecologica, e abbiamo previsto una ricognizione, sulle genealogie del pensiero economico femminista e sull'uso e l'approccio di genere per individuare i livelli di disuguaglianza, sfruttamento e discriminazione in campo economico. Sicuramente da qui poi quello che abbiamo voluto dare, no? Formando, diciamo, quello che abbiamo voluto proporre formando questo modulo, è stato quello di toccare, il binomio produzione-riproduzione per darne poi una critica, a quello che è, no, la fondazione dell'economia politica e criticarla, secondo una visione femminista, facendo attenzione alle categorie di genere, razza, classe, età, per poi discutere con questi strumenti le crisi sistemiche, ambientali, economiche e sociali, davanti a un modello che appunto influisce sulla vita umana e non umana, a partire dalla quasi recente nozione di antropocene. Da qui abbiamo incominciato a dirci perché non fare, perché non creare una comunicazione di questo modulo, tra teoria e pratiche. Quindi nasce un'idea di fare una 2 giorni di pratiche, una 2 giorni che si svolge, si è svolta a Luce e Siesta, che è una casa delle donne, un rifugio che è attualmente sotto sgombero, dove appunto, si attua una difensa, una, perdonatemi, litagnolo, dove si attua un'autodifesa femminista, al maschilismo, alla violenza maschile, domestica e non, e quindi, e da qui c'è anche un centro promotore politico dove anche, si creano nuovi modi di fare politica. Lucea e Siesta è non a caso, il posto, il luogo che, avevamo scelto dove creare una connessione tra queste pratiche e metterle in dialogo. E durante questi 2 giorni hanno dialogato Luce e Siesta stessa, Macao di Milano, Crasi di Bologna, Precarious Workers Brigade, non una di meno, la gruppa, il gruppo permanentemente aperto, le economie alternative e cooperative delle donne nella rivoluzione di Rojava, la Crianza Compartida, di Barcellona, e non una di meno, con un gruppo in particolare, che tratta di spazi, le Pantegane. Da qui, il successo di questi 2 giorni, di questo dialogo tra pratiche e mondi differenti, abbiamo deciso di crearne un libro. Un libro che quindi ha una forma, a mio parere, differente, perché è un libro che non vuole trattare di teorie femministe e basta, ma vuole trattare soprattutto di pratiche. di esperienze e quindi del valore delle esperienze stesse che entrano in dialogo l'una con l'altra, che non si contrappongono ma che possono creare utopie quotidiane e che di fatto le creano nel reale. E il titolo, La natura dell'economia, prende forma proprio dall'introduzione che abbiamo fatto le coordinatrici di questo modulo, che abbiamo intitolato così, il giorno 26 ottobre del 2018. Lo stesso giorno abbiamo avuto una fantastica lezione magistrale di Antonella Picchio, dal titolo Uno sguardo femminista sull'economia politica, corpi, vulnerabilità, lavori, redditi e relazioni. E così è come nasce il libro e il perché di questo titolo. E il sottotitolo chiaramente prende forma esattamente con quello che è stato il modulo e le esperienze che ne hanno preso forma. Abbiamo poi chiesto che cosa significa svolgere oggi una critica femminista dell'economia politica. Sentiamo. Cosa vuol dire oggi una critica dell'economia politica, una critica femminista dell'economia politica? È una domanda complessa, quindi io sarò breve e imprecisa. Oggi viviamo in un sistema economico che è globale, globalizzante, che sfrutta e domina lo spazio, domina i nostri corpi e incarniamo questa violenza giorno per giorno. In particolare la incarnano tutti quei soggetti, non solo, però in maniera particolare, tutti quei soggetti che non rispondono alla norma dell'uomo bianco, cis, di media età, borghese, sano, con tutte le accezioni che questa parola vuole dire, sano. E tutte le altre o diventano opposto discorsivo all'interno di un dualismo ideologico o stanno al margine. Quindi, e in ogni caso, il sistema economico cerca all'interno di fare entrare ogni soggetto cosa all'interno di un sistema commercializzabile, normalmente costruito su binomi discorsivi, come produzione e riproduzione, dentro fuori, pubblico privato, e commercializza l'esistente. Oggi quindi una critica femminista dell'economia politica deve parlare di vita al margine dell'economia, di riproduzione sociale condivisa, di rimettere al centro una vita che deve essere degna di essere vissuta, e quindi si ritorna a parlare di economia che parla di tutto questo, di vita, di corpi, e quindi l'economia è politica. A parlare di una critica dell'economia politica, fu Marx, è stata una tradizione marxista, che continua tutt'oggi, però che ha tralasciato spesso la questione della riproduzione, che invece il movimento femminista prende e porta al centro come riporta al centro la vita. Quindi questo porta a definire essenziale una critica femminista dell'economia. E poi abbiamo domandato di raccontarci un po' qual è la storia dell'approccio femminista al pensiero economico. L'approccio femminista al pensiero economico nasce all'incirca all'inizio degli anni 70 e viene ripreso successivamente a fine anni 90. In differenti accezioni, come l'ecofemminismo, il femminismo queer e il transfemminismo. Intanto per cominciare, una delle prime cose che fa l'approccio femminista al pensiero economico è quello di estendere l'approccio statistico-matematico, di ribaltarlo, di risignificarlo e di romperne l'idea prima, ovvero l'idea del valore che ne sta dietro, quindi la reinterpretazione del valore stesso. Quindi negli anni 70 il femminismo italiano in particolare fa una critica marxista e comincia con un attivismo da cui poi crea teoria e cominciano con una campagna internazionale che dal nome Un salario per il lavoro domestico e che viene promossa dal collettivo femminista internazionale. L'obiettivo principale di questa campagna è la visibilizzazione del lavoro di riproduzione che viene naturalizzato donna. Quindi, successivamente a quest'ondata di femminismo marxista, di cui le principali, diciamo, autrici sono Silvia Federici, Leopoldina Fortunati, Maria Rosa Della Costa, Selma James, eccetera, si passa poi a un femminismo degli anni 80 e 90, delle post-strutturaliste come Judith Butler, le quali rileggono criticamente Foucault. Fino a oggi, dove si riprende un nuovo materialismo che si arricchisce del femminismo materialista degli anni 70 e che riprende la fase post-strutturalista, creando nuovi soggetti. Per esempio, il cyberfemminismo di Donna Haraway, i soggetti nomadi di Rosie Braidotti, l'ecofemminismo queer di Karen Barad, senza dimenticarci poi delle pratiche di Non Una di Meno, che agita a livello internazionale, solidarizzando con i movimenti internazionali, con il movimento indigeno, del Latino America e del Sud America, con il movimento delle donne curde, eccetera. Bene, questo libro è composto da saggi brevi e suddiviso in tre parti. Abbiamo chiesto cosa affrontano questi saggi, quali argomenti e il perché di questa suddivisione. Eh sì, La natura dell'economia è un testo, è un lavoro che risulta diviso in tre parti: il taglio femminista, epistemologie e nuovi mondi. E credo che sia sostanzialmente stata una suddivisione a cui siamo arrivate quasi naturalmente, e per spiegare il perché devo fare un piccolo passo indietro. Sostanzialmente, questo libro nasce dallo scambio e dal confronto che è avvenuto all'interno del Master in Studi e Politiche di Genere di Roma 3, più specificamente appunto all'interno del modulo Economie. Un modulo che fu appunto nell'edizione 2018 curato da me, Sara, Federica Giardini e Gia Piccardi. All'interno di questo modulo sostanzialmente ci siamo confrontate con ricercatrici e accademiche che erano e sono anche e soprattutto attiviste, no? All'interno del modulo abbiamo innanzitutto deciso di guardare all'economia con una prospettiva altra, non egemonica, e che non ponesse quindi al centro l'individuo maschio, bianco, borghese, le sue scelte, le sue necessità, i suoi bisogni, no? Interrogandoci appunto sul che cosa volesse dire parlare di economia con una prospettiva altra e soprattutto con una prospettiva che quindi fosse femminista. E siamo partite quindi dalla critica alle fondamenta dell'economia neoclassica per parlare di produzione, riproduzione, lavoro domestico e di cura, bisogni, necessità, appunto con un approccio che fosse nostro, che fosse collettivo e che fosse femminista. E ci siamo sostanzialmente appunto domandate quali fossero le attività effettivamente funzionali alla riproduzione della specie umana, perché erano quelle attività che poi sostanzialmente a noi interessava andare ad indagare e riprodurre. E abbiamo poi fatto un passo avanti cercando di andare ad affrontare le analisi che economiste sensibili all'ecologia e al femminismo hanno realizzato e che propongono. E in un'ultima parte del modulo, quello che poi abbiamo fatto è stato andare a interagire con le pratiche e le esperienze di economie altre esistenti. Non è stato un caso che appunto questo modulo si concluse con due incontri all'interno della Casa delle Donne Lucia y Siestal, una casa delle donne che si trova, uno spazio occupato che si trova appunto a Roma, una Casa delle Donne che è anche un centro antiviolenza e casa rifugio che ad oggi è sotto sgombero, quindi appunto questo luogo come luogo emblematico poi delle pratiche che volevamo andare a portare avanti e allo stesso tempo di altre che invece andiamo assolutamente a contestare. E quindi niente. Sostanzialmente credo di poter dire che appunto questa ripartizione in realtà non è stata altro che lo specchio di una sorta di tripartizione a sua volta estremamente fluida che abbiamo in qualche modo sviluppato all'interno di questo contesto e di questa esperienza. Ecco, e nella terza di queste sezioni, quella intitolata Nuovi Mondi, sono presentati invece vari casi studio concreti, come quello delle Pantegane, un collettivo di ricercatrici impegnate a mappare lo spazio urbano per la riappropriazione delle città da parte di donne trans, oppure i gruppi di educazione condivisa di Barcellona e diversi altri. Abbiamo domandato loro di raccontarci queste esperienze. Per quanto riguarda i casi studio in concreto, io mi sento di partire da me come nella tradizione femminista e parto da me proprio perché in questa sezione ci sono due testi importanti che mi riguardano personalmente. Uno è quello delle Pantegane, del collettivo che nasce da Non Una di Meno, e di cui faccio parte, ho contribuito alla formazione. L'altro è l'articolo che parla dei gruppi di crianza compartida, che è un articolo che mi riguarda in modo particolare perché è stata una ricerca che ho fatto nel 2016 qui a Barcellona, dove vivo ancora, dove appunto tratto la questione dei beni comuni, civili e vedo nuove pratiche per mettere in comune la riproduzione sociale, in particolare il lavoro di cura. Partendo dalle Pantegane, che appunto è un gruppo politico, che Che nasce alla luce dello scioglimento del tavolo nazionale Terra, Corpi, Territori e Spazi Urbani, di non una di meno. Allo scioglimento quando si sono sciolti tutti i tavoli di lavoro, noi che facevamo parte di questo gruppo ci siamo riunite in maniera molto più amichevole per salutarci, per dirci quali potrebbero essere le nostre progettualità future, e abbiamo visto che avevamo ancora tantissima voglia di continuare a lavorare e della necessità che voleva dire per noi, però non solo della necessità che c'era di parlare comunque sia della liberazione degli spazi pubblici, privati, della rottura del binomio appunto pubblico-privato. E quindi nasce la volontà di procedere con una certa autonomia rispetto alle istanze avanzate dalla mailing list del tavolo, e abbiamo continuato a vederci. Giocando un po' con i dibattiti che erano emersi in questa mailing list sull'animale umano, sugli animali liminali, abbiamo ripreso questo nodo, ossia quello del posizionamento animale, e in particolare degli animali più legati allo sviluppo della vita umana, come i piccioni, i ratti, e per rileggere gli spazi urbani, decostruendo la città costruita sul modello del maschio lavoratore. Questa idea ci ha colpito molto e, tra una cosa e l'altra, abbiamo deciso di chiamare questo gruppo Le Pantegane, che è un modo ironico che è allo stesso di chiamarci, però che allo stesso tempo tiene in sé il rifiuto della retorica del decoro, lo sguardo e l'attraversamento imprevisto nella città, il margine, l'intelligenza, il gioco con il dispregiativo nel rapporto con la sessualità femminile autodeterminata, riappropriandosi quindi dell'essere zoccole, perché sì, Pantegane. Nel centro Italia, sud Italia, vuol dire proprio zoccola. E quindi ci riappropriamo di un'offesa dell'animalizzazione di un lavoro e lo risignifichiamo. Quindi la città per noi è lo spazio in cui la maggior parte delle nostre vite si svolge. La sua struttura orienta i nostri percorsi, i nostri incontri ed entra in diretto contatto con le nostre esperienze, percezioni, sensazioni. Quindi lo spazio della città, però lo spazio in generale, non è assolutamente passivo e si orienta e si intreccia tra relazioni, incontri, e intrattiene con i nostri corpi un rapporto stretto e continuo. Al contrario di come viene spesso dipinta, la città non è una somma statica di vie, edifici, piazze, ma è un organismo vivo e in continua evoluzione che cambia sia attraverso grandi progetti di trasformazioni che attraverso piccoli atti quotidiani, politiche condivise e dal basso. A seconda di come viene costruita la città, può generare più o meno giustizia sociale e spaziale, includere o escludere, accogliere o imporsi, generare o comprimere spazi e i nostri tempi di vita, per esempio. E da qui riprendiamo chiaramente il filo, perché Le Pantegane è un gruppo di lavoro e un collettivo femminista. Quindi si riprende il filo della lotta alla violenza maschile sulle donne, in un contesto di movimento femminista nazionale e transnazionale. E chiaro, questo ha mosso in noi l'urgenza di rideclinare la riflessione a partire dalle forme di violenza strutturale che vengono dall'ambiente urbano. Sempre collegandomi a questo filo, in realtà, la ricerca che feci nel 2016 sulla questione della crianza a compartire, ovvero dell'educazione condivisa, è proprio come mettere al centro la questione della riproduzione sociale e in particolare il lavoro di cura dei genitori, in particolare delle donne, delle madri, che vivono lo spazio urbano giorno per giorno, uno spazio che chiaramente è precluso a una vita esterna ai bambini e alle bambine. Quindi, sono gruppi alternativi che affrontano l'educazione libertaria, che cercano di condividere la questione della genitorialità, quindi non avendo solo due figure di riferimento, il padre e la madre, andando più in là, cercando di decostruire anche i ruoli di genere, in alcuni casi, non in tutti, e da lì cercare anche di trasformare. Cosa che effettivamente avviene, di trasformare le piccole aree urbane in cui si ritrovano. I bambini escono per strada, si riappropriano proprio della strada, dei parchi e non seguono i limiti che vengono, diciamo, dati in maniera visibile, simbolizzati dentro dei parchi e delle piazze, che sono dei piccoli recinti dove teoricamente i bambini sono costretti a giocare. Bene, in questo caso, con un gruppo di genitori, il gruppo delle bambine e dei bambini, diciamo, violano questo limite. Lo rompono entrando e uscendo, sempre con una supervisione, diciamo, della figura dell'adulto. E sempre con anche una figura dell'educatrice e dell'educatore, però sì, però totalmente in una libertà concessa comunque sia anche dai mezzi di trasporto, però totalmente liberi di, diciamo, vivere lo spazio in una maniera differente rispetto che a una classica famiglia. E creano, a detta loro, a detta delle persone che partecipano attivamente a questi gruppi, creano proprio un modo differente di intendere la famiglia. Quindi abbiamo la condivisione di quello che appunto dovrebbe essere il lavoro di riproduzione che normalmente è naturalizzato donna. Qui si ha una ridistribuzione dei ruoli, chiaramente limitata al possibile, perché ovviamente siamo in un sistema produttivo capitalista dove chiaramente nel momento in cui si entra dentro il mercato del lavoro, diciamo, certi gradi di libertà sono limitati dallo stesso sistema in cui viviamo. Però diciamo che si creano nuove visioni, no? E delle alternative su cui questi gruppi lavorano e effettivamente ottengono dei risultati molto importanti. Questi gruppi per la maggior parte sono legati a spazi politici, in particolare mi piacerebbe citare un gruppo che si chiama Babalia. E questo gruppo è molto interessante perché è un gruppo che ha elaborato una maniera per portare i bambini in manifestazione. Quindi è molto bello perché sono super organizzatissimi, super pieni di iniziative, di una maniera di andare comunque in manifestazione combattiva con questi trenini di bambini che vanno a lanciare un messaggio politico per me importante perché bisogna riappropriarci dello spazio pubblico, però lo spazio pubblico di chi è? Lo spazio pubblico è di tutte quelle persone marginali in questa società, tra cui rientrano proprio anche queste figure normalmente viste come figure deboli, che sono appunto bambine e bambini che invece in questo caso si riappropriano loro stessi di uno spazio che è essenziale allo svolgimento della loro vita vivendo appunto l'urbano. Ovviamente ci tengo anche a sottolineare che eccetto questi due capitoletti. Importantissime sono le visioni altre che vengono presentate dentro questa terza parte, E si passa a immaginari visionari, pratici e reali che si svolgono, come per esempio l'attivismo di Macao, però anche si va a parlare di lotte importantissime, come per esempio quella curda, delle donne curde del Rojava, presentate da Zizaslan in un'intervista con Gia Piccardi. Quindi consiglio fortemente di leggere questi capitoli perché fanno parte di realtà e modi di stare nel reale, resistendo, combattendo lotte completamente differenti l'una dall'altra, ma allo stesso tempo di una forza travolgente. Un articolo pubblicato su filosofam.it 3 settimane fa, subito dopo l'uscita del libro, sintetizza questo lavoro con un'espressione che è: l'economia, in poche parole, deve diventare ecosistema. Abbiamo chiesto se è corretto e se sì, di precisarci questo concetto. Ascoltiamo. Sì, anche se forse direi l'economia dovrebbe tornare a considerarsi o dovremmo tornare a considerarla come parte di un ecosistema. L'economia convenzionale non tiene infatti conto di quella che è la nostra ecodipendenza e interdipendenza e ignora i limiti entro cui la specie umana può riprodursi. Dobbiamo infatti, secondo me, secondo molte altre, tornare ad interrogarci sulla questione del limite, limite dettato dal fatto che viviamo all'interno di un sistema che è finito, di un sistema mondo che è finito e che noi stesse siamo sostanzialmente corpi finiti. E il limite è una parola che spesso e volentieri non ci piace, che ci fa storcere il naso, ma se ci consideriamo libere solo laddove anche le altre sono libere, se ci consideriamo noi stesse solo in relazione alle altre e agli altri, solo in un contesto di comunità e di collettività, se realizziamo che siamo esseri viventi facenti parte appunto della natura e viviamo in relazione con gli altri esseri umani da cui appunto dipendiamo, allora forse ecco che la parola, il concetto di limite può assumere altri significati. E questo sicuramente ce lo insegnano le idee, le proposte, le prospettive che ci arrivano dai cosiddetti mondi altri, esperienze altre e contesti come quello zapatista, curdo e di tutta una serie di altre realtà che si incontrano e che troviamo nel mondo, realtà ed esperienze appunto non necessariamente soggiogate all'interno di un contesto e di un sistema capitalista, patriarcale e statocentrico che invece pone al centro l'individuo e i propri interessi. E viviamo infatti all'interno di un mondo umano che viene costruito e che abbiamo costruito come se non facessimo parte della natura che ci circonda e che dà alla categoria donna un senso di subordinazione e di strumentalizzazione alla riproduzione invece di un privilegio che è quello del maschio bianco, borghese ed eterosessuale. Sostanzialmente che cosa succede? Che donne, e io qui parlo di donne come soggettività storicamente oppresse, non perché io creda che esista un biologismo determinista che ci renda poi donne e femminili, e quindi ritornando al discorso, appunto donne, beni e cicli naturali e territori dei sud del mondo vengono sostanzialmente sfruttati e questo sfruttamento permette che poi esistano alcuni privilegiati che citavo precedentemente che possano sostanzialmente invece condurre una vita in forma indipendente, come se fossero appunto isolati dal contesto che invece li circonda, contesto ecologico e contesto sociale. Allora, appunto, non è a questo mondo che noi in qualche modo aspiriamo, è un mondo altro, aspiriamo ad economie altre, sono queste economie altre che a noi interessano, che invece appunto pongono al centro la riproduzione della specie umana all'interno di un pianeta che è finito. E poi abbiamo chiesto della dicotomia produzione-riproduzione, che che abbiamo già sentito accennare nelle prime risposte, che è affrontata un po' in tutto il libro, in diverse accezioni, ed è problematizzata in vario modo. Abbiamo chiesto di parlarcene e ascoltiamo. Allora, la dicotomia produzione e riproduzione viene affrontata un po' in tutto il libro, in differenti accezioni, in particolare quando parliamo, soprattutto nell'introduzione anche del primo femminismo economico, citando alcune teoriche come Leopoldine Fortunati, Maria Rosa della Costa, Federici, che pongono al centro della loro analisi lo sfruttamento che avviene a causa della disparità tra il valore che la forza lavoro inserisce dentro una merce e il prezzo della stessa. Quindi qui abbiamo uno sfruttamento che avviene nell'intervallo esistente tra il valore e la monetizzazione del valore stesso. E questa valorizzazione, qui cito, attraverso il denaro, rende invisibile il lavoro di riproduzione sociale, creando un doppio sfruttamento della forza lavoro normalmente a carico del genere femminile. Questo chiaramente è visibile nel lavoro di produzione quando possiamo vedere come le nostre economie siano basate su una questione, su un valore numerico dato da una produzione materiale dove si sfruttano capitale umano e capitale naturale, ma per riprodurre il capitale naturale abbiamo bisogno di altro capitale umano che normalmente questo lavoro, che è il lavoro di produzione sociale, viene effettuato e a carico effettuato dalle donne. È invisibilizzato normalmente nello spazio privato fino al giorno d'oggi, nel contemporaneo, dove viene anche che viene a entrare nel mercato del lavoro, però con differenti accezioni. Per salvaguardare l'accumulazione e la riproduzione della forza lavoro, il potere si sviluppa anche controllando la vita. Ad esempio, attraverso la regolarizzazione delle popolazioni e attraverso gli effetti globali che induce. Le modalità di assoggettamento sono molteplici e possono riguardare l'organizzazione dello spazio, l'ispezione medica o psicologica e attraverso altri dispositivi di controllo dei corpi. In questo progetto di assoggettazione vi è stato un passaggio nella produzione di sapere e potere da popolo a popolazione che ha portato alla riduzione e alla coercizione delle soggettività in termini di stime, statistiche e interventi che prendono di mira il corpo sociale o gruppi presi nel loro insieme. Quindi qui avviene il cambio di paradigma tra un sistema di produzione fordista a uno di tipo post-fordista. Questo cambio di paradigma economico ha comportato un processo di trasformazione del lavoro, come per esempio l'aumento del precariato, è una simultaneità e differenti modi di produzione. Quindi la riproduzione sociale e la riproduzione biologica entrano entrambe nel mercato del lavoro, fuoriuscendo dallo spazio privato della famiglia e diventando centrali per le strategie di accumulazione. Si assiste quindi al superamento della distinzione dicotomica produzione e riproduzione fino a costituire una nuova forma di biolavoro. Quindi entrano in produzione la vita umana stessa e quella non umana. E questa si può osservare tranquillamente guardando come sul mercato del lavoro ci sia tutto il mercato che riguarda appunto la riproduzione biologica umana, come la banca del seme, anche la questione del mercato dei viveri, del cibo che riguardano per esempio gli OGM, però anche il mercato biologico, eccetera, eccetera. Infine, abbiamo posto una domanda di più stringente attualità, diciamo, non che quanto affrontato fino ad ora non lo sia, anzi, ma voglio dire che abbiamo parlato di quanto è sulle bocche di tutto il mondo oggi, ovvero l'emergenza del Covid-19. E dal loro punto di vista, quello cioè che guarda l'economia e alla società in un modo intersezionale, abbiamo chiesto quali sono gli aspetti più problematici o più attuali, o al contrario quelli più interessanti in modo positivo che hanno rilevato, e anche quali retoriche sembra più importante oggi sottoporre a critica. Sentiamo. Sicuramente lo sguardo dell'ecologia e degli ecofemminismi ci può regalare strumenti utili all'analisi di ciò che ci sta accadendo e del contesto quindi attuale, già a partire dalla presa in carico dell'ipotesi per cui sia stata e sia la devastazione ambientale la principale causa dell'accelerazione nel processo di circolazione degli agenti patogeni in epoca neoliberale. In particolare, appunto, quando pensiamo alla devastazione ambientale, facciamo riferimento alla deforestazione dovuta all'agroindustria, agli allevamenti intensivi, ai processi di urbanizzazione e logicamente di industrializzazione. Sinceramente la cosa che riteniamo, che ritengo più aberrante è il fatto che circoli l'idea che sia stato e sia il comportamento, diciamo, appunto, incorretto degli esseri umani la causa del dilagare di questo virus e del diffondersi della pandemia, quando invece credo sia quasi scontato dover, cioè, ribadire che le condizioni di diffusione del virus si rifacciano invece a decadi o quantomeno appunto decenni di politiche neoliberali che hanno completamente devastato interi ecosistemi e ne hanno alterato appunto la vita, ecosistemi all'interno del quale appunto poi noi stessi come specie ci riproduciamo. L'altra cosa che sinceramente reputo problematica è il fatto che si stia e si sia costruita una narrazione sostanzialmente appunto di guerra che ci divide, una narrazione appunto che ci divide tra buoni e cattivi, tra responsabili e furbetti, ma questa è assolutamente una narrazione che segue degli interessi e sono degli interessi capitalistici, se vogliamo appunto statali, che rincorre una narrazione che rincorre e che si rifà al solito discorso dei privilegi per pochi. Per fare un esempio, fino a qualche giorno fa, credo tuttora, girava appunto sui social l'immagine che appunto metteva sostanzialmente insieme in relazione due mappe. Una era quella della diffusione del coronavirus e l'altra era invece la mappa dei cosiddetti lavoratori del manifatturiero, ovvero quindi appunto era una mappa che raffigurava i principali centri, diciamo, di aggregazioni delle industrie del manifatturiero e guarda caso erano sostanzialmente due mappe che andavano a combaciare, quindi forse appunto ad un certo punto sorse pure la domanda se non fosse stato il caso magari di andare ad ritrovare lì le colpe di questa propagazione e diffusione del virus, perché è lì che ci si andava ad aggregare, piuttosto che invece far diventare nemico pubblico il vicino di casa che esce appunto a fare la passeggiata col cane o il vicino di casa che esce a fare una passeggiata e a prendere un secondo di aria o di appunto di sole. Tra l'altro poi, altra domanda, il sistema produttivo non si è fermato, ok, ma chi ha deciso appunto quali produzioni fossero essenziali e quali no? Eppure qui, per citare giusto un esempio, l'industria delle armi si è, cioè, sostanzialmente non si è fermata, e nello specifico credo che addirittura quella dei caccia F-35 si sia fermata 2 giorni e poi abbia ripreso. Secondo noi, appunto, questo discorso del cosa è necessario, quali sono i nostri bisogni, è un discorso di cui assolutamente ci dobbiamo appunto riappropriare, e mai come ora. Queste, ci sono tutta una serie di domande che con altri compagni, quando ci andiamo ad incontrare, quando vogliamo discutere appunto di economia femminista e di economie altre, ci poniamo, e sono appunto le domande che vertono sul quali sono appunto i nostri bisogni, quali sono le necessità che avvertiamo, che tipi di attività e che tipi di produzioni sono necessarie per soddisfare questi bisogni e queste necessità, che per appunto, ricordiamo, sono bisogni e necessità costruite collettivamente, evidenziate collettivamente e valorizzate collettivamente, e non imposte appunto dall'alto. Voglio però chiudere con, diciamo, una nota anche di positività, e quindi andando anche a sottolineare però le esperienze, diciamo a mio avviso estremamente positive, no? Di ad esempio gruppi di mutuo appoggio, di gruppi di mutuo aiuto, e che si stanno diffondendo in diversi quartieri. Io qui parlo di Roma perché questo è il territorio che ho di riferimento, e che secondo me appunto, anche e soprattutto in un'ottica di prospettiva economica ecofemminista, ritengo estremamente positivi, no? E ritengo che aprano spazio a futuri appunto scenari in cui appunto è la relazione con l'altro e l'altra che viene assolutamente valorizzata, in un rapporto, ci auspichiamo, di solidarietà mutua, quindi orizzontale più che appunto caritatevole o unidirezionale. Faccio poi un breve accenno anche a quella che è una retorica che abbiamo provato, diciamo, negli ultimi giorni, nell'ultimo mese, a decostruire e a criticare, ovvero la retorica del restiamo a casa, no? Appunto, ci dicono di restare a casa senza considerare che non tutte una casa ce l'abbiamo, e senza considerare che non per tutte la casa è un posto sicuro. Ci dicono appunto di rimanere a casa senza considerare invece che rimanere a casa per molte è un privilegio, e hanno costruito questo immaginario per cui se stai a casa andrà tutto bene, ma ci sono intere fette della popolazione che diciamo a questo privilegio non possono semplicemente accedere. Penso appunto agli stessi lavoratori del settore industriale che prima citavamo, penso agli impiegati della sanità che vuoi o non vuoi devono andare a lavorare, ma penso anche a settori e a fette della società ancora più emarginate, tipo per esempio le persone senza documenti che sono costrette ad oggi ad andare a lavorare in nero, sottopagate, all'interno dei campi, e ammassate addirittura spesso e volentieri in tendopoli o ancora peggio lungo il confine. Penso addirittura anche alle lavoratrici del sesso che stanno attraversando una fase di estrema vulnerabilità e criticità. E per anche forse andare oltre il discorso del lavoro, e però guardando sempre a questa retorica di privilegio che in qualche modo si sta diffondendo, ad oggi penso anche alla situazione ad esempio nelle carceri, in cui appunto si viene ammassati all'interno di celle Le persone che ad oggi sono detenute sono prive di qualsiasi tutela dal punto di vista della salute, ma vengono assolutamente abbandonati a loro stessi. C'era uno slogan che è girato e che continua a girare, che è quello appunto in cella in otto in una stanza e fuori a 1 metro di distanza, che segna proprio l'ipocrisia, no? Di questo immaginario del andrà tutto bene se rimaniamo a casa. E tra l'altro sono stati fatti, e qui chiudo, una serie di presidi da parte dei parenti e dei solidali rispetto appunto a questa situazione delle carceri, che sono stati duramente repressi in questi giorni. E appunto qui chiudo lasciando un po' una serie di interrogativi rispetto a quello che potrebbe essere e che è il rischio di normalizzazione di alcune misure repressive che si stanno in qualche modo attuando in questi giorni, con appunto la scusa della situazione di emergenzialità, appunto. Per concludere, abbiamo chiesto se c'era qualcos'altro che volevano dirci, qualcosa che volevano aggiungere liberamente. Ecco. Beh, per terminare, mi verrebbe in mente l'importanza che per me ha avuto questo libro. Questo libro per me è stato importante perché risalta la necessità della pratica, la necessità della solidarietà, della messa in comune. E oltre a esserci degli esempi pratici, ci sono anche le possibilità e il potenziale di immaginari futuri. Immaginari che saranno sicuramente utili non solo adesso, nel presente, in questa situazione paradossale, assurda e allo stesso tempo repressiva che ha creato il potere con un problema che ci stiamo ritrovando ad affrontare a livello mondiale, come la maggior parte dei problemi economici durante la globalizzazione, però a quanto pare anche biologici. Beh, quando finirà la quarantena dovremo uscire di nuovo nelle piazze, dovremo affrontare una crisi che già è sistemica, è strutturale, però sarà probabilmente una delle crisi peggiori. E chiaramente saranno le marginalità ad accusarla di più questa crisi, però saremo tutte e tutti. E allora sarà lì che dovremmo mettere in atto pratiche femministe, transfemministe, pratiche di solidarietà e riscoprire e trasformare lo spazio in una maniera condivisa e per condividere la riproduzione sociale e riappropriarci dei nostri spazi politici. Bene, grazie. Grazie davvero a Sara Pirallini e Federica Tommasello, curatrici di questo volume. Ricordo La natura dell'economia, femminismo, economia politica, ecologia, edito da Derive a Prodi, è uscito un mese fa, quest'anno. Lo si può trovare anche sul sito dell'editore deriveaprodi.com, a sconto assolutamente consigliato. Finisce qui la puntata di oggi, la si potrà riascoltare in podcast sul sito della radio, ma non finisce qui questa trasmissione di letteratura che invece è appena iniziata. Grazie a tutti per l'ascolto, sigla e ci sentiamo la prossima settimana. Leggere è un modo per viaggiare. What's up, y'all? This your boy D-Mike. See, I usually do songs with like hooks and concepts and shit, right? But fuck that, man. I'm trying to go platinum. So I'm about to rock this shit. Check this out, y'all. Read a book, read a book, read a motherfucking book. Read a book, read a book, read a motherfucking book. Direi che è il modo più bello per viaggiare.